trasmissore, però è solo un ricevitore della banda VHF. Gliel'avete spiegato, ce l'ho io l'ascolto, se poi uno non capisce allora sono altri paio di maniche, capito? Gliel'ha detto, gliel'ha anche spiegato, ce l'ho io l'ascolto, gli ha detto guarda che ricevi le VHF e le UHF, punto. Gli HF sono un'altra cosa. E non io gliel'ho detto, se vabbè, poi non è che dicendo, non è esperto, diciamo, ancora, non ho come esperienza queste cose, comunque no, è un bel portatino quello già, Io Roma Vecchia non ne ho, io gli ho dato che è nuovo, addirittura la batteria mi dura 3 giorni, 24 ore su 24, immaginate se è nuovo. No, ma mamma mia, che comunque non ne devo togliere nemmeno qua. Io gli ho detto che se non voleva era così, se no lui ha detto che andava bene, punto. Andare va bene, già, con il presente va benissimo, oggi non bisogna mai vedere niente a nessuno già. Adesso bisogna, hai capito, che ti fa l'abitudine, e puoi attaccare l'antenna, hai capito, esterna, quello con l'attatore, che non ce l'aveva. Adesso non si dice, hai capito, che con il patologo quando c'è il conto da ascoltare, è rimasto l'attatore, però lui ha un HF. Hai capito, è nulla, anche se preferisco qua più i baracchini, tipo quelli che ha più. Vabbè dai, io non voglio entrare nel discorso, non mi interessa, io dico sempre quando si compra una cosa bisogna leggere, bisogna capire che cosa si sta comprando, se Gianni gli ha detto che è V e U, è inutile che si continui a parlare di HF. Davvero, un ricevitore UHF, UHF, HF, da 50 kHz a un giga e mezzo ci vogliono i soldi, capito? Ci vogliono i soldi, soldi, soldi, vuol dire soldi, oltre le 500 euro, non quel poco che si spende per avere quello che si ha, punto. Vabbè, non metto lingua, fate voi sì, ok Gianni, riprenditela. No, ma manco io mi metto in bocca, perché io mi sono sentito con Antonio, ma ho che è abbastanza soddisfatto di quello che gli ho dato. Non capisco perché adesso stia dicendo così Gianni, io ho parlato con Antonio al telefono, ho detto solo abbastanza, ti ho telefonato per vedere se andava bene, figurati, mi sono anche preoccupato. Ma come no, va benissimo, mi è piaciuto, sono entusiasmato, eccetera, eccetera. Non mi ha detto nulla di tutto quello, cioè. Stava preparato anche lui, era contento, però ho detto quello. Ma lascialo vedere. Non è come quello che hai visto, il ricevitore che ho io, è uno 030, e infatti lo 030 non riceve il VHS, quello che è. Quello il VHF lo riceve, siccome che gli ho fatto sempre un po' di radiatori, capito? Molto quelli non li riceve, però riceve la banda aeronautica, riceve anche la banda 400 riceve, però non la perché. C'è il libretto, gli ho dato anche il libretto, basta leggere, c'è scritto tutto quanto. Comunque io per prendermi il 600 euro mi prendo un 140 che fa la 230, la stessa la pago 300 euro, la metà. E come si chiama? Riceve l'aviamatore, l'aeronautica, riceve così della marina, quella roba lì è la banda 400, riceve. Ho visto, è bellissimo, già, niente impeccabile, però non riceve la HF, la roba lì. Ma era, già, l'HF lui lo sapeva che non lo riceveva, lui me l'ha chiesto. Io l'HF non ero mai entrato, e allora sono andato anche a vedere sul libretto, perché magari sono stato io, ma io l'ho preso per VU. Poi gli ho detto, guarda che non è fa HF, fa VU e basta. Tutto lì, non è che, comunque io ascoltavo il link di Sassari, il monitor di Sassari, il link nazionale, tutte queste cose qui, e ci avevo i punti radio, RSI, R7, eccetera, eccetera, quindi vuol dire che qualche cosa di radioamatura puoi ascoltare, non puoi dire di no. Sì, quelli pure ascolta tutti, perché il ponte glielo fa sentire anche io. Dopo mi senti il ponte, ho detto, e quello uccidia, quello tranquillo, ma non te la fare chiesto a me. Hai capito, rispetto, tanto di cappello, anche se non sto bene. Claudio, riprendi all'apparato Uranus. Ma non lo so, secondo te come va? Lo sto usando, quindi no. Non lo so, secondo te come va. Quello è alla grande. Sempre questa sto usando io qua adesso. Cambio microfono ogni tanto. Questo è l'SBE, figurati. Questo è l'SBE che non l'avevo neanche più usato. L'ho inserito e va bene. Tutti i microfoni che ho io sono adattabili con questa radio, vanno perfettamente bene. Ma non lo sai che pensavo che stavo usando un HF io adesso, è uno di quelli Kenwood, e guarda alla grande qua, e se pieni lo qui, e se pieni a vedere, questo calcello, così, col microfono lì c'hai. Sì, quello lì, no, io HF lo uso in banda amatoriale, qua uso il baracchino, non l'HF. Ma proprio spiglio, si sente proprio la portata che possente. Questo è il baracchino, questo è un baracchino. Io uso il baracchino, visto che si deve usare il baracchino, io uso il baracchino 27, non uso l'HF. Usando un Midland. Topparla, cazzo. In Midland. Riprendi già. Cosa stavo dicendo qua? Ho saputo che c'è un bel casino, che ci sono tutti senza acqua, sia a Portore che a Sassari. Cosa è successo? Stanno cambiando la Forania a 600, quindi chiaramente le stazioni di pompaggio sono ferme sia da Monte Oro per Ponte Rosello e sia dalla 131, quindi quella che c'è sulla strada dei Lioni. Capito? Il partitore è chiuso, quindi non c'è acqua né a Porto Torrose, né a Ottava, né a San Giovanni, né a Ponte Rosello, e quindi automaticamente tutta la zona del monte, diciamo, vai. Dunque, a quanto pare a Porto Torrose è stato finito il lavoro, perché ho visto che stavano coprendo. Quindi c'era la 30 a voi. Sì, dovrebbero aver finito, ma prima di riempire una forania da 600 ci passa almeno un altro giorno, capito? Se no 24 ore, 12 ore ci passano, quindi sino a quando i vasconi delle stazioni di pompaggio non sono piene, le pompe non si possono attivare se non aspirano aria e quindi vanno attivate piano piano, metro cubo per metro cubo, questo la gente lo deve capire, non è che stai aprendo un rubinetto e ti arriva subito l'acqua. Lì ci sono 900, 950, anche 1100 litri al secondo che passano, quindi penso che bisogna lavorare in una certa maniera, perché se dovesse scoppiare la condotta, chi è al movimento delle saracinesche lo trovano appeso a qualche albero, capito? Quindi bisogna fare cose piano piano. Vabbè, la pressione è solo una volta, è normale che ti dà per così. Ma così già l'avevo fatta abbastanza male, certo di amare chiusa da una parte e dall'altra. Ho provato, ho visto che era chiusa scendendo da via Tre Sacchi, c'erano le transede con i vigili, ho detto vabbè dai, faccio il giro, sono entrato dal molo, ho detto faccio il giro dall'altra parte per andare via mare, c'era già la buca della sabbassa, poi ho detto bubù, però per passo. Alla fine mi sono dovuto mettere giù al molo e sono dovuto andare a caricare la roba e scendere, meno male c'è lo scivolo lì e sono sceso da lì, da dove fanno la passeggiata. Infatti, no vabbè, ma la cosa più, quella più grossa è dalle stazioni di pompaggio, bisogna aspettare un attimino che si riempia bene la condotta per poi iniziare a aprire piano piano le saracinesche, spurgare, far riempire i vasconi e poi dare l'acqua alla città. È un lavoro che richiede un po' di tempo, quindi bisogna avere un po' di pazienza, non è che è una cosa da fare subito, capito? Tutto qua, va bene, avanti Gianni Capri 2, riprendi. Ok, capiti mai, sì. Io ogni tanto capitavo, anche due giorni senza acqua, guarda, è un disastro, sono da Calazza, è proprio la fine del mondo, è massimo, non per bere, ma anche per fare, diciamo, tutte le altre cose che si fanno in una casa. E quindi, Giannetto, forse la lavatore, così è. Posso. Tu, a che ora devi andare? Ma io fra una mezz'oretta, già, sto cercando una mezz'oretta, sono attivo, e poi abbiamo finito. Se l'avessi avuto il lavoro in K2, eh? Cosa? Se l'avessi avuto il lavoro in K2, lavora 10 minuti e poi, a riposo, di nuovo. No, non mi basta il mio, non mi fido nessuno, cioè mi basta il mio. Mi va bene così, io lavoro solo di mattina e mi va bene così, non ho problemi, ognuno deve fare il suo. Lo sai che per un mese, tipo quello tuo l'ho fatto, un'estate, devo portare, controllato tutte, come si chiama, le letture, i depositi, è andato fino al deposito. Le letture, sì. Dal miniguito, tutte le letture, la volta mi ha fatto presto. La sera cinesi, poi la sera chi vengono, certo, l'ho fatto un mese quel lavoro, e poi perché ci mancava il compagniere che era in fede, ma di tutto l'ho fatto nella mia vita. Io non sono un fontaniere, ho Gianni, attento. E vabbè, ma vi occupate di condotte. Per esempio, ti posso dire che il depuratore che c'è a Muro l'abbiamo costruito noi. Quale depuratore, il vecchio? E quello che c'è, uno ne abbiamo qua, ce l'abbiamo, mi sembra che sia assieme a Cargè, e quello che c'è proprio prima di arrivare a Polo, nella salita. Ma quello è un depuratore consortile, quindi fa Muro, Scargè, è una parte della zona industriale di Codorgianos. Anche quello lo gestisco io. Ma io sto parlando, quello di Colognano, l'ultimo di cose, quello che c'è proprio a Muro, di fronte, la si posso dire, a Chiesi. Quello, il depuratore consortile, ti ho detto. Fa Muro, Soccargeghe e la zona industriale. Sì, sì, quello lo abbiamo da zero, l'abbiamo... Si comprende. L'abbiamo fatto noi da zero. Non so, noi ce l'hanno dato l'anno scorso, quindi non lo gestivamo noi, adesso lo gestiamo noi. E comunque io mi occupo di tutt'altro, non di saracinesche, di livelli e di contatturi. Ma pensavo che in quel settore, se quello delle acque dolci, quel settore qui. Ma in quel settore, ma non mi occupo di fare fontaniere. Fontaniere è una cosa a parte. Io mi occupo di lavori, di resti di lavori e altre cose. E voi ero quel fontaniere, perché quando sono diciamo, ho fatto io quel lavoro per sostituire questo che era in fede, che per il comune lui fa il fontaniere, però c'è sempre di serracinesche, di cose, di controlli, di contatturi, era il coso, poi anche altro, mi dirà, era quello, come fare il giorno. Bene, già riprendi.